L'iniziativa che abbiamo organizzato è stata, diciamo, un primo tentativo, a nostro parere sembra anche abbastanza ben riuscito, di riunire tutte le case editrici nazionali e non solo, che si sono occupate, hanno dedicato parte dei loro cataloghi a libri impegnati e politici, e ci è sembrata un'occasione per riunirci qui in questo spazio al centro sociale 18, COX 18, per chiederci cosa significa oggi nel mondo contemporaneo fare politica e fare critica, portare avanti una critica politica attraverso i libri, in una società dominata dal controllo, dai sistemi di controllo. Ce ne parleranno in questa tavola rotonda che abbiamo previsto, moderata da Tiziana Villani, con Cristina Morini, con Ubaldo Fadini e con Andrea Fumagalli e con Lucia Tozzi. Ci sarebbero dovuti essere anche altri due interventi, uno di Irving Welsh e l'altro di Michele Lancione, che purtroppo alla fine per problemi tecnici e di salute non siamo riusciti a organizzare. Ci dispiace molto, ci saranno altre occasioni sicuramente, ma non vi ruberei altro tempo e vi chiederei di riunirci così iniziamo il dibattito. Grazie Valentina. Allora, se mi sentite bene, io modererò un po' questo momento di discussione, poiché non abbiamo voluto fare la classica passerella, non è il momento, non è il luogo per introdurre così delle domande che ci sembrano domande urgenti. Ho con me, vicino a me, preziosi amici, collaboratori, compagni con i quali lavoro da molto tempo. Un grazie speciale a questo spazio che ci sta ospitando, agli amici, compagni che hanno lavorato in modo indefesso, direi 2 mesi circa, almeno, e per lo sforzo organizzativo, non banale, non evidente, soprattutto in una città come Milano che diventa un po' sempre di più una città complicata. Magari poi con Lucia Tozzi torneremo su questo aspetto specifico. Questo primo momento di riflessione lo abbiamo voluto intitolare appunto Liberare i saperi nelle società di controllo. Indicando, l'ho detto anche in altri momenti in cui ho dovuto un po' spiegare questa iniziativa, che cosa abbiamo da intendere per società di controllo oggi, posto che il debito appunto scientifico, il criterio di riconoscimento delle idee altrui deve essere sempre come stile sottolineato. Dobbiamo questa indicazione a Gilles Deleuze, a un suo testo specifico, Postscriptum, sulle società di controllo, laddove appunto il problema del controllo viene indicato come un problema attinente il nostro tempo, la comunicazione, il modo in cui la comunicazione diventa sistema normativo, sistema di regole, sistema prescrittivo. È proprio a partire da questa premessa che le persone che ho accanto a me, che appartengono ad ambiti di ricerca articolati, vicini, ma insomma diversi, sono un po' chiamate a aiutarci a chiedersi davvero in che modo è possibile in un momento come questo fare ancora ricerca, ricerca critica, ma avere saperi condivisi, perché poi dei saperi nulla ce ne facciamo se non ricadono in momenti come questo, in cui qualche cosa che individuiamo diventa patrimonio comune, sociale e collettivo. Vi presento quindi un po' gli ospiti che sono già qui con me, Cristina Morini, che anima insieme ad Andrea Fumagalli una rete importante per l'Italia e per Milano che è effimera. Ci sono qui altri collaboratori e attivisti che ho intravisto. Effimera è una rete importante perché connette proprio reti di riflessioni, ma che stanno sulla contemporaneità. Cristina è una ricercatrice indipendente, si occupa delle tematiche del lavoro, ma soprattutto delle tematiche del lavoro inerenti al femminile, e quindi come, no, questa dimensione in particolare sia stata nell'oggi messa sotto pressione singolare. Andrea Fumagalli insegna economia, è un economista attivo, come dicevo prima, in questa rete, e soprattutto è un ricercatore che si è occupato a lungo di capitalismo cognitivo, e a partire da questo sarà anche forse opportuno chiederci oggi che ne è, no, di questo salto, trasformazione dei meccanismi di indicazione che ci vengono dai mutamenti del capitale. C'è poi accanto a me Ubaldo Fadini, amico di sempre, col quale animiamo Mille Piani da 30 anni. E Ubaldo è un filosofo, studioso di antropologia della tecnica, e sulla questione della tecnica, a mio avviso, vale la pena davvero oggi di interrogarci, perché è forse una delle questioni che accanto alla comunicazione indicano, no, un salto accelerato del mutamento. Purtroppo non c'è Michele Lancione, che avrei veramente desiderato tanto avere qui, perché è un geografo, e quindi insomma sono, come dire, partant, come si dice in Francia, perché anch'io provengo da quel percorso di studi in parte, e che ha lavorato sul nesso università ricerca ricerca militare, in un nesso sempre più stretto che non è solo inerente ai saperi, ma proprio progetti che sono soggetti a finanziamento e quant'altro. E nell'attesa di Lucia Tozzi spendo anche per lei due parole di presentazione, perché lei ha, oltre che essere una giornalista ricercatrice, ha fatto un lavoro importante su Milano, e su una Milano che in qualche misura lei, no, indica come invenzione, l'invenzione di Milano è il titolo del suo libro, che trovate tra l'altro anche qui, e tra culto della comunicazione e politica dell'urbano. Dico questo perché se c'è una città in Italia che ha cambiato pelle più di qualunque altra, una città che come dire, è stata sempre, no, nell'onda di una metamorfosi talora generosa, tal'altra, forse come questa, meno, è sicuramente Milano, che non ha cambiato solo il suo skyline, ma ha decisamente cambiato i modi di vivere, di avere relazioni, di lavorare, di pensare il tempo. Allora, io inizierei con passare la parola a Cristina, chiedendole proprio, magari, no, andando un po' a ruota libera, perché vorremmo che fosse un dibattito fra tutti, fare un po' il punto, no, sull'ordine delle tue ricerche. Grazie Tiziana, grazie a tutti e a tutte di essere qui, grazie di questo invito e di questa occasione. Difficile iniziare, anche visto, come dire, l'ordine del giorno, no, che tu hai proposto. Evidentemente condivido fortemente la necessità di fare un po' il punto, no, su quelle che sono lo stato dell'arte, no? Tu dicevi della ricerca critica, no, in un momento come questo. Hai citato Effimera, che per dire, come dicevamo, no, parliamone un po' liberamente, delle cose che abbiamo fatto, che abbiamo tentato di fare e che ancora facciamo. Ecco, questa è stata in questi anni per noi rete larga, di cui anche voi, anche Ubaldo, insomma, fate parte, una risposta a quelli che sono gli imperativi del presente, no? Quindi in un momento in cui ci sono proprio delle pesantissime forme di destrutturazione. Intanto è arrivata Lucia Tozzi, la facciamo sedere. Qua di fianco a noi. Sei già stata presentata in tua assenza, eccoti qua. E stavo dicendo di Effimera, che insomma rete larga che coinvolge in modi differenti tante realtà, tante soggettività, l'idea che ci sta lì dietro è proprio quello di portare avanti, no? Quello che abbiamo chiamato in alcune sezioni delle critiche della crisi o un diario della crisi, no? Che sembra un po' in molti momenti sopraffarci, appunto a proposito di destrutturazione poi proprio dei sistemi di vita, delle forme di vita, no? Dentro la città, dentro le cose che facciamo, no? Anni fa parlavamo con più disinvoltura e convinzione di inchiesta, no? Ed era un tema molto importante. Ora, vabbè, con Effimera qualcosa cerchiamo di fare. Lucia è qui a parlarci di Milano, voi fate la vostra parte. Tutti abbiamo tentato e tentiamo, no, di tenere duro. Per ciò che riguarda quello che ho fatto io, insomma, il tentativo è stato evidentemente quello di andare un po' a vedere, no, dentro questo sistema di controllo, no? Tu citavi giustamente Deleuze, Foucault, no? Quella che si diceva una biopolitica, si dice giustamente una biopolitica che vediamo. La sentiamo, non è solo teoria, no? Ma è questione proprio di provare dentro i nostri vissuti profondamente ormai, no? Cosa che, come dicevo, poi ci destabilizza e quindi rende anche più fragili le reti dove noi siamo, più difficili i percorsi che agiamo, ma ciò non toglie che è il faticoso lavoro che ci resta da fare, no? E dicevo, io ho cercato di guardarlo dal punto di vista di ciò che succedeva alle donne, no? Nel mondo del lavoro, alle donne, e nel momento in cui appunto i paradigmi produttivi cambiavano, il sistema fondato sulla precarietà, evidentemente con forme però anche di cattura della soggettività, no? Quindi non è soltanto una forma di organizzazione del lavoro, come abbiamo imparato in tante occasioni a dire, oppure non è solo questione, adesso a proposito di paradigmi produttivi, data mining, no? Ma è questione proprio, come posso dire, di un ordine del discorso che cerca di cambiarti dall'interno, no? Quindi è questa è la fatica di fronte alla quale ci troviamo, no? Di imporre silenzi oppure applausi a seconda dei dettami, no? Quindi un sistema di controllo anche difficile da ricusare dentro forme appunto di precarizzazione che hanno a che vedere con la selezione, non c'è niente da fare, no? O sopravvivi perché ci stai a determinate cose oppure sei fuori. E ora le soggettività soffrono all'interno di questi imbrigliamenti, no? Quindi siamo all'interno di parole, so, adesso ne richiamo un po' che mi vengono in mente dentro questo ragionamento libero, anche buttandole un po' al pubblico: repressione, ricatto, paura, nevrosi, no? Senso di fallimento, l'umiliazione ha molto a che vedere, no? E questo è un po' l'effetto agito sui soggetti. E in tutto questo le donne o i migranti, quelli che sono fuori, no, dai confini della città del lavoro, così come è stata declinata per un sacco di tempo, e che hanno rappresentato però anche, no, una forma di resistenza, no, il soggetto imprevisto, una forma, come dire, di altrove, sono stati i più, no, incastrati, mi viene da dire, a un certo punto, dentro queste forme di pressione che avevano a che vedere con quello che, in modo molto sommario, insomma, vi citavo, no? Quindi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, cambiamenti delle forme produttive, femminilizzazione del lavoro, no? Feminization of work, in Cognitive Capitalism, scrissi nel 2007 per la Feminist Review, quindi sono passati parecchi anni, no? Quindi questo crinale, no, della cattura della differenza a patto, no, di integrazioni però, no? A patto però di accettazioni. E ora la cornice per tutti questi soggetti secondi, no? La città degli esclusi, storicamente mi verrebbe un po' da dire i meteci, no? Oppure i nuovi schiavi, le nuove forme di curvea a cui siamo sottoposti, dentro meccanismi di coercizione al lavoro, no? Che però appunto poi abbiamo detto non sempre ti portano salvezza, ci portano a riflettere, no? Su anche, come posso dire, forse delle scommesse che erano state fatte, no? Da un punto di vista teorico e da un punto di vista politico. Sto pensando al divenire donna del lavoro declinato, no, in termini di potenza e non, come posso dire, no, di quelle descrizioni che sto dicendo, no, tu entri però a patto che, e quindi processi di valorizzazione della differenza palpitante del vivente, no, che ha poi come radice storica, mi viene da dire, poi il patriarcato, se vogliamo. Quindi, al di là, no, di quelle che sono state le trasformazioni, però il capitalismo non è stata l'unica forma, no, che il mondo si è dato per la cattura di esseri umani, ma donne, uomini, appunto, stranieri, a seconda dei momenti, eccetera, eccetera, ma patriarcato che stabilisce il contratto sociale. E quindi le donne sono state spesso quelle appunto fuori da quel qualcosa, no? Che nel presente appunto è il capitalismo e che si declina sulle forme appunto di un'ambivalenza sempre, no? Un dentro e fuori da queste forme di cittadinanza che adesso appunto evidentemente sono diverse. Quindi, i ragionamenti che si sono provati a fare, che io ho provato a fare, sono stati appunto relativi a quello che potremmo chiamare, forse in termini un po' impropri, una sorta di esercito industriale di riserva, riserva dell'espressione massima della crisi del sistema di fabbrica, no? Nello sviluppo di forme di accumulazione che ormai sono evidentemente e chiaramente direzionate sulla vita, sul vivente, quindi sulle forme più riproduttive che su quelle produttive, no? Quindi scelte imposte. Dunque, queste donne negli anni 90 sono state inserite all'interno di meccanismi, dato il contesto di precarietà, e a patto appunto, come dicevo prima, di determinate come dire, disponibilità a darsi, no? Da un punto di vista che poteva essere anche appunto di ordine sentimentale, eccetera, eccetera, e di alcune caratteristiche prototipiche che venivano individuate. Oggi succede il contrario, quindi oggi noi vediamo un'espulsione massiccia di donne dal mercato del lavoro, e anche questo rappresenta un problema della contemporaneità, no? E ci ripropone quel tema, no? Del dentro fuori, del essere o non essere a seconda dei sistemi di controllo, no? E delle forme che esso pretende di darci. E quindi adesso il problema è, per ciò che riguarda le donne, il femminile, così, andare a così riempire quelli che sono dei vuoti del welfare state. E un'ultima parola vorrei dirla riguardo ai giovani, e anche qua appunto io ho parlato di donne, ho parlato di migranti, addirittura sono andata a prendere i meteci, Però anche i giovani all'interno di questa situazione, pochi numericamente, sto parlando in particolare dell'Italia ovviamente, no? Quindi, di un Occidente anche, bisogna anche posizionarsi un attimo, no? Siamo qui in Italia, nel cuore dell'Occidente, invecchiato un po' tragicamente, eccetera, eccetera, accerchiato da guerre, che fa guerre, eccetera, eccetera. E addestrati dalle tecnologie, no? Anche questo elemento che è evidentemente molto importante all'interno appunto di una fragilità esistenziale che è fondata, oltre che sulla precarietà, mi verrebbe da dire sulla colpa. Ecco un'altra parola che mi verrebbe da usare. La colpa è tua, no? Quindi poi la solitudine che ti vivi a seconda. Quindi siamo immersi dentro questa cultura del rimorso, di non riuscire a rispettare, no? Ad aderire, ad essere all'altezza di codici di comportamento, no? A proposito di controllo, che devono essere comunemente accettati. Quindi, e questo mi porta a dire, dentro questo ragionamento, insomma, dove ho toccato tanti punti, forse un po' troppo confusamente, ma insomma spero che qualcosa si sia compreso, ci porta a sviluppare un atteggiamento anaffettivo, che è la cosa che mi preoccupa di più, soprattutto quando nomino i giovani e soprattutto quando nominiamo, no, pagina in rivolta, quando nominiamo la necessità di fare politica, no? Quindi nominiamo, adesso avendo fatto noi delle cose, ma essendo con un piede nel passato e dovendo forse consegnare qualcosa al futuro effettivamente, no? Quindi anaffettivi, forse è una forma di difesa, di vuoto, dentro questa svalorizzazione di saperi, no? E di una politica anche della comunità che viene svuotata di senso, no? E la dimensione di nemicità che alle quali la precarietà ci ha addestrato evidentemente non fa altro che rincarare questo tipo di sistema. Vale appunto per le donne, sei sola, sei in competizione con altri, sei a casa adesso e stai a casa perché servi a casa, poi invece adesso ci servi all'interno dell'impresa, quindi diventa casalinga del capitale, come avevo detto a un certo punto, e quindi una specie di gioco anche un po' perverso, no? Applicato al sociale, mi verrebbe da dire. E con tutto quello che ciò si porta con sé. Mi rendo conto che sto facendo un discorso un po' diciamo a proposito di evoco il futuro, ma i quadri che do certamente sono un po' privi di luce, però bisogna anche secondo me guardare a questi aspetti per riuscire ad uscirne, cioè quindi essere consapevoli di quelli che sono i meccanismi attuali, non nasconderci dentro delle parole d'ordine che forse al momento non ci servono più tanto, no? Quindi nevrosi che dilagano e appunto direi questo tema anche dell'essere un po' anestetizzati rispetto a tutto ciò che succede è un problema con il quale confrontarci, no? Come uscirne, certamente ricostruendo comunità, stando, avendo cura di quelle che abbiamo, e questo è uno dei momenti per poterlo fare. Non lo so se ci crediamo davvero tutti abbastanza, oggi siamo qua in tanti, quindi sembrerebbe di sì. Certo è che ci dobbiamo prima attraversare questo deserto, mi viene da dire, no? Quindi passare per delle parole che ci rievocano quasi delle forme medievali, mi verrebbe da dire appunto patriarcato, la colpa, le curve, lo schiavismo, tutte queste forme di neoschiavismo ovviamente, no? Però insomma in alcuni casi... E quindi essere consapevoli di essere immersi dentro questo terreno, no? E forse anche dentro alcune responsabilità che direttamente o indirettamente forse ci portiamo, c'è cioè un elemento anche di sconfitta con il quale confrontarci, no? Per riuscire ad andare oltre, per fare ancora ricerca critica che abbia davvero un senso appunto compiuto andando verso il futuro. Va bene, vi ringrazio. Grazie Cristina. Allora, grazie Cristina, ritengo prezioso insomma questo passaggio che indica quello che credo sia un po' lo stato del presente, che è quello di vivere lungo linee di frontiera dalle quali continuiamo a entrare e uscire. Noi siamo in una spazialità che è tutta segmentata, che si dà come omogenea e omogenea non è, e questo vale, no, per tutte le istanze di vita, certo, quelle lavorative, quelle di organizzazione anche di prospettive e linee per il futuro, però è chiaro che ci sono soggetti più esposti, le donne sono più esposte, i giovani a mio avviso sono largamente più esposti, affamati di affettività che non trovano il modo di esprimersi, no? In maniera un pochino più gioiosa, se mi posso permettere, e quindi questo è uno dei crinali che indica che cosa e come agisce il controllo. Il controllo agisce attraverso un meccanismo dominante che è il seguente, bene che ce lo diciamo, nel momento in cui noi, come dire, accettiamo che c'è una dogmatica della semplificazione, no? Della vita, della semplificazione delle parole, della semplificazione dell'immaginario e del pensiero, stiamo cadendo in una dogmatica pubblicitaria che annienta ogni forma di sperimentazione, e l'età giovane è proprio quella che più ha bisogno di margini di invenzione, magari sbagliando, ok, ma è quello, no? Il momento. Noi dobbiamo, come dire, smontare questo meccanismo, proprio perché è un meccanismo che si afferma secondo uno slogan che è sempre ripetutamente lo stesso: pensare basso, pensare poco, pensare male. E allora i saperi, lo dicevo prima, no? È per quello che ci stiamo ragionando, ci servono quando diventano strumento di una messa in comune. E qui Andrea, ti prego di darci tu adesso un altro avviso. Prendi quello. Grazie. Mamma mia. Io sarò un esponente di quello che volerò più basso. No, perché le questioni, no, le questioni sono assolutamente dirimenti. Le cose, le problematiche, i nodi critici che ha posto Cristina favoriscono una presa di coscienza di cui non siamo coscienti, spesso e volentieri, nel senso che è più comodo far finta che non esistano tutta una serie di problematiche, anche perché ci mettono in crisi, in un certo senso. Io non ho nessuna risposta da questo punto di vista, posso fare alcune considerazioni abbastanza banali, devo dire. Sicuramente, visto che parliamo di conoscenza, e la conoscenza è un concetto molto variegato, plurimo, eterogeneo, che in inglese è facile perché si usa il termine knowledge che va bene per tutto, ma la lingua inglese è una lingua semplice, che semplifica volutamente, la lingua del padrone, il padrone semplifica sempre, no? Ma nelle lingue neolatine conoscenza, c'è competenza, sapere, conoscenza, c'è un insieme di parole che hanno sfaccettature diverse. Ecco, oggi direi che questo insieme di parole è diventato centrale nel processo di accumulazione, di valorizzazione. Non che prima non lo fosse, la conoscenza nel senso più semplice è sempre stata centrale nello sviluppo dell'operaio di mestiere, piuttosto che nello sviluppo tecnologico, piuttosto che nelle forme di evoluzione del sistema capitalistico dalla rivoluzione industriale in poi. La tecnologia diventa centrale nel capitalismo ed è una tecnologia che ha a che fare con il sapere, con la scienza e tutti i suoi derivati. Quindi, ma oggi quello che penso è il motivo per cui avevo iniziato a interrogarci sul termine capitalismo cognitivo, dove il termine cognitivo faceva riferimento a una specifica forma di sapere. Oggi ci troviamo in un contesto in cui la conoscenza non è strumento semplicemente, ma è la base da cui nasce e si sviluppa la capacità di creare valore, di creare plusvalore all'interno di una realtà capitalista che è basata su due principi tra i tanti: proprietà privata da un lato e rapporto capitale-lavoro dall'altro, per dire proprio le cose basiche e banali, no? Non è caso che tutte e due queste due questioni sono oggi sottoposte a una torsione. La proprietà privata si sta modificando, sta assumendo forme diverse che sarebbe interessante andare a analizzare. Il rapporto capitale-lavoro si sta declinando verso forme di ibridazione che non abbiamo mai sperimentato in precedenza. Se il capitalismo è sempre stato fondato sulla separazione tra macchina e forza lavoro, due cose che era necessario ricomporre perché il processo di produzione potesse avvenire, oggi noi assistiamo a una forma di ibridazione tra l'elemento macchinico e l'elemento umano. È il cambiamento tecnologico ed è il cambiamento anche del ruolo dei saperi che hanno portato a questa trasformazione, no? Molto banalmente potremmo dire il divenire umano della macchina o il divenire macchinico dell'umano. Oggi forse assistiamo più al divenire macchinico dell'umano che è il primo, perché se fosse il divenire umano della macchina, tutto sommato potrebbe essere più controllabile, ma il diventare e la forma del controllo è rendere, è questo processo di enorme processo di lobotomizzazione cerebrale che le tecnologie digitali hanno implementato e che oggi, grazie allo sviluppo delle piattaforme, sono diventate pervasive su tutto il tempo di vita degli umani, in un certo senso. Ma la conoscenza e la necessità di controllare i processi di apprendimento, che tipo di sapere fornire, che tipo di competenze sviluppare, che livelli di specializzazione fare, e questo è il compito dei sistemi educativi, dei sistemi dell'istruzione. Non è un caso che negli ultimi 20 anni abbiamo avuto un numero di riforme nel settore educativo dell'istruzione, dalla scuola media, alla scuola media superiore, all'università, come mai si è verificata nella storia precedente. Perché è un continuo rincorrere le forme di necessità di uso di un sapere con finalità capitalistiche, un sapere che diventa, credo, apparentemente più libero, o sembra più libero, e proprio perché appare apparentemente più libero richiede di forme sempre più sofisticate di catture di controllo, no? Non c'è più il dispositivo disciplinare del maestro che ti dà le bacchettate sulla dita, questo ormai non serve a più niente. Io ho avuto sono abbastanza vecchio di aver sperimentato anche queste cose qua, no? Prima del 68 facevo le elementari, no? Ma oggi gli elementi, soprattutto a livello universitario, credo, ma poi credo che poi Ubaldo su queste cose è molto più competente di me, si sviluppa un processo di controllo non soltanto dell'apprendimento, ma anche dei meccanismi di diffusione dell'apprendimento. Apprendimento e rete sono due facce della stessa medaglia. Oggi il processo di valorizzazione del capitale passa attraverso le cosiddette, io che sono economista uso i termini economisti, scusatemi la perversione, ma si parla di economie di apprendimento, come delle economie di scala, cioè quelle economie che consentono l'aumento di produttività. I processi learning by doing, learning by using, learning by interacting, per usare terminologia inglese che è molto sulla bocca, in cui gli economisti si riempiono la bocca. E insieme alle economie di apprendimento ci sono le economie di rete, le economie di relazione. All'interno di queste economie di rete non è più soltanto quella degli anni 90, come venivano immaginate, quelle gestite e strutturate sulla base delle tecnologie digitali e tecnologie comunicative, tecnologie basate sul linguaggio artificiale, che è stata la grande rivoluzione degli anni 80 e degli anni 90. No? Oggi le economie di rete diventano economie di relazione umana. È il divenire umano della tecnologia comunicativa che rende l'umano sempre più meccanico in un certo senso, sempre più macchinico da questo punto di vista. E questi diventano due fattori produttivi, quelli che stanno alla base. Ci sono delle eccedenze, perché nel momento stesso in cui la capacità di apprendimento, la capacità relazionale che si declina su base individuale, perché fa parte della nostra natura come esseri umani, e quindi teoricamente avrebbe degli spazi anche di sovversione, a meno che non vengano ingabbiate. Questo è necessario perché ci sia questo ingabbiamento, come ricordava prima Cristina, no? Negli anni 90 e nei primi anni 2000 ha avuto come effetto, lo dico velocemente, che le facoltà vitali, apprendimento e relazione, sono l'uomo, l'essere umano è un animale pubblico, come diceva Aristotele, nel senso che vive in comunità, ha una sua, è un animale senziente in un certo senso. Non è l'unica specie senziente, da questo punto di vista, perché adesso una serie di evoluzioni di studi ci fanno vedere che la questione è molto, c'è un extraumano anche che bisogna prendere in considerazione, no? Ma rimanendo nel campo dell'umano, per semplicità, no? Le facoltà umane, le facoltà vitali, negli anni 90 hanno cominciato a diventare soggetto di prestazione lavorativa, sono state messe al lavoro. È il periodo che, della femminilizzazione del lavoro, il periodo che ricordava prima Cristina, no? Oggi c'è stata un'ulteriore evoluzione, grazie allo sviluppo sempre tecnologico, basato alla diffusione delle piattaforme, quello che oggi si chiama il capitalismo delle piattaforme in un certo senso, perché le piattaforme sono state un potentissimo processo organizzativo, non del lavoro, o non esclusivamente del lavoro, ma di omogeneizzazione dei modelli produttivi. Cioè il capitale negli anni 90 si era disperso, è diventato eterogeneo, c'erano diversi modelli organizzativi, c'è il modello dei distretti industriali, c'è il modello del toyotismo, c'è il modello di Pinco Pallo, eccetera, eccetera, no? Ce n'erano diversi che più o meno cercavano di stare in piedi, confliggevano, davano spinte diverse, muovevano processi di internazionalizzazione, di globalizzazione, c'era il ruolo della finanza, tutte queste cose qui. Ed era una situazione dal punto di vista del capitale che potremmo definire ex post quasi caotica, senza, e noi magari non ce ne andavamo neanche tanto conto. Adesso invece io noto che c'è un processo di omogeneizzazione verso un modello unico organizzativo del capitale, che è quello basato sulla piattaforma, grazie alle tecnologie algoritmiche, grazie alle tecnologie, alle nanotecnologie che consentono in spazi minimali di poter gestire e manipolare miliardate e miliardate e miliardate di dati. C'è l'industria dei big data, il data mining, tutte queste tecnologie qui, che non sono le tecnologie dell'information communication, non sono le tecnologie informatiche, è un nuovo livello tecnologico, un nuovo paradigma che si sta entrando, che è collegato anche alle tecnologie della vita. Quindi c'è questa commistione, la lettura del genoma, le biotecnologie, la possibilità di creare materiale vivente artificiale, quindi che con tutte le conseguenze e i rischi che ciò possa comportare, no? In questo contesto c'è un processo di forte irrigidimento del capitale, di quasi di integrazione verticale, per usare un altro termine economico, di organizzazione molto più semplice, che si basa sulla piattaforma. Qual è il principio di questa nuova organizzazione produttiva? È che la vita non è più necessariamente messa a valore tramite il lavoro, come negli anni 90. La vita veniva messa al lavoro, dicevo prima, e quindi produceva plusvalore attraverso le nuove forme di sfruttamento del cognitariato, delle attività cognitive, la precarietà diventava la forma organizzativa del lavoro prevalente perché era funzionale a far sì che la vita messa al lavoro creasse valore, eccetera, eccetera. Adesso la vita viene messa direttamente a valore senza passare per qualche forma di intermediazione del lavoro. Cioè il lavoro evapora, il lavoro si svalorizza, il lavoro non è più necessario al capitale. Potrebbe essere anche, dici, che finalmente, che bello, no, ci siamo, il lavoro si è sganciato dal capitale. Purtroppo non è che si è sganciato perché noi abbiamo fatto rifiuto del lavoro. È il capitale che ha creato le premesse per non dipendere più dal lavoro o di un certo tipo di lavoro, inserendo nuove forme di sussunzione, nuove forme di cattura, direttamente sulla vita. Oggi la vita è totalmente all'interno dei processi di accumulazione. Per cui vengono fuori i problemi. Le donne prima devono andare a lavorare perché devono mettere a valore la loro capacità lavorativa, la loro caratteristiche, le loro differenze, le loro particolarità. L'individualità diventava un fattore positivo per creare aumenti di produttività, per fare risolvere tutta una serie di problemi, eccetera, eccetera. Il sapere specializzato era funzionale all'interno dell'attività lavorativa a creare valore. Adesso tutto questo non è più necessario. Diceva bene prima Cristina che adesso le donne stanno a casa, ma non solo le donne, anche i giovani stanno a casa, perché non è più necessario che lavorino, perché già lavorano. Quando noi andiamo sulle piattaforme già produciamo, ma non c'è bisogno che abbiamo un orario di lavoro, una definizione pur fittizio convenzionale del tipo che lavoro fai? No, io non faccio nessun lavoro. Che lavoro fa? Faccio il NIT, faccio quello che non è informazione, lavoro eccetera, e allora dice, beh, allora sei totalmente improduttivo. E no, e qui c'è il trucco dietro. Il NIT diventa l'elemento base della nuova processo di accumulazione, perché mette gratuitamente a disposizione le sue facoltà vitali. La gratuità ormai è diventata la forma, qua, non dico dominante, sarebbe eccessivo, ma una forma che si sta allargando. Noi quando facciamo le lotte sulla precarietà, a un certo punto si è detto, vabbè, quando saranno tutti precari, come sta succedendo, oltre questo non si potrà andare. Sbagliavamo, eravamo ingenui boscaioli, eravamo illusi, no? Perché dopo la precarietà c'è la gratuità, è un elemento ancora, perché oggi si lavora spesso gratuitamente, non ce ne rendiamo conto, o se ce ne rendiamo conto non sappiamo come rispondere, non abbiamo strumenti, non abbiamo capacità, ci viene frustrazione, impotenza, ci sentiamo colpevoli, si sviluppano tutte queste cose che raccontava bene prima Cristina, quindi non mi dilungo, no? E questa gratuità diventa, certo, crea un sistema instabile. Questa fase capitalistica è caratterizzata da eccessiva instabilità, perenne instabilità. Ma è questa instabilità che consente di rimescolare continuamente le carte e consente la sopravvivenza dello stesso sistema, paradossalmente. Ecco, la conoscenza, i percorsi di istruzione ed educazione, sono parte integrante, sono quelli che consentono, favoriscono questo processo di nuovi modelli di sfruttamento della vita, che vanno ben altro la corvée da un certo punto di vista, o sono forme di autocorvée che noi stessi ci imponiamo all'interno di meccanismi di valorizzazione che stanno alla base della competizione, l'individualismo e tutta la solitudine, perché è un elemento fondamentale per la gratuità del lavoro, il processo di domestication del lavoro, non hai più un posto dove andare a lavorare, quindi lavori a casa, che cazzo vuoi? Prendi pure di essere pagato, stai a casa tua, non so, è banale, vengono fatti questi discorsi, no? No? Quindi la domestication, lavorare da casa, lavorare da remoto, smart working lo chiamano, che è veramente una contraddizione linguistica, no? Perché altro che lavoro smart, no? E ci sono tutte queste nuove forme, e questo avviene perché tu lavori non con un altro essere umano, non lavori più con un capo, magari lavorassi con un capo, perché se lavoro con un capo almeno posso mandarlo a fanculo, posso fare qualcosa, ho qualcosa contro cui lottare da riferimento. Io adesso non so neanche contro chi lottare, con chi me la prendo, mi sento frustrato, insoddisfatto, non guadagno un cazzo, volevo fare delle altre cose, non riesco, ho tutta una serie di problemi, la mia precarietà è tale. Io penso a livello giovanile, gli studenti universitari che io conosco per mestiere si sentono in questa situazione di inessenza, di non essere in un certo senso. E questo è il sapere, l'università, sono tutti dispositivi da questo punto di vista che favoriscono, selezionano, creano delle elite ovviamente, no? E questo è il tema su questo. Come fare? Anzi, qualcuno diceva che fare, più che come fare, no? Questo dobbiamo interrogarci, partendo dalle nostre soggettività in un certo senso, come sempre è stato fatto nella storia. Questo periodo qui prima o poi passerà, qualche reazione ci sarà, purtroppo un paio di generazioni verranno brasate, verranno bruciate, è già in corso questo processo. Ed è quello che mi sembra di capire dalla mia piccolissima lente visuale, che è totalmente parziale, poi elitista, perché ormai chi va all'università è un elite, no? Quindi, quindi io mi fermo qui perché non avrei nient'altro da dire. Grazie Andrea. Sì, cioè se siamo qui credo che proprio per smontare, no? Perché stiamo facendo i conti, non è casuale. Volevo aggiungere un passaggio a quello che diceva Andrea, ma anche Cristina. Quando la vita diventa inessenziale, quando diventa solo un tassello che non ha più bisogno di giustificarsi, per cui io ti do un modo di lavorare, di consumare soprattutto, che è un modo per cui tu esegui non sei un soggetto attivo, sei un soggetto passivo, perché è in corso, perché abbiamo, come dire, un orizzonte che insomma è lì, no? Uno spazio assediato dalle guerre. Non è un caso che questo periodo storico, no, depotenziando il significato e il senso della vita e delle cose, risponda con individualismo, nazionalismo, identità e quant'altro. Sono i perni che ci dicono di un nuovo modo di articolare la risposta a questa depressione sociale collettiva. La risposta è la selezione umana che è in corso. Ricordo un numero di Herodot bellissimo: la geografia serve a fare la guerra. E quindi no, se oggi siamo lì di fronte a uno spazio così assediato, le nostre geografie sono sempre meno geografie esistenziali e sempre più geografie appunto di frontiere assediate. E su questo, Ubaldo, ti chiederei di aiutarci anche tu cortesemente. Bene, grazie. No, io ringrazio Tiziana, e con la quale c'è comunanza di lavoro, come è stato ricordato, attraverso la rivista Mille Piani e altri luoghi. Dopo aver sentito però Tiziana, Cristina e Andrea, effettivamente dovrei volare non basso, ma assolutamente non volare, perché hanno detto tanto, hanno detto molto, e sarebbe interessante insomma approfondire, chiederci qualche cosa, no, su quello che abbiamo ascoltato. Io mi limito a indicare alcuni punti, forse in maniera un po' sconnessa e non troppo comunque organizzata, visto che siamo partiti dal motivo del controllo, no? Dall'idea del controllo, quindi abbiamo fatto i conti direttamente o indirettamente con alcuni classici del pensiero critico radicale, Foucault, Deleuze, eccetera, eccetera. Ecco, rimanendo un attimo su questo terreno, c'è qualche cosa di questa tradizione, insomma, di queste pieghe di pensiero critico radicale che forse può ancora servire oggi per capire, ovviamente parzialmente, in maniera molto laterale, molto eccentrica, quello che sta succedendo. La metto in termini scolastici, no? Si è parlato di società disciplinare, società di controllo, no? La società disciplinare è una società caratterizzata dal principio dell'internamento, cioè dalla realizzazione di spazi di collocazione dei soggetti dove lì devono stare, ben regolati, regolamentati. Facendo un discorso un po' sciocchino, no? Da un punto di vista storico, nella prospettiva foucaultiana, vi ricorderete, le società disciplinari, la nostra è ancora, è in gran parte una società disciplinare, la società disciplinare viene fuori dopo la società di sovranità, che è una società dove chi ha il potere si disinteressa parzialmente di regolamentare le vite dei sudditi, interviene invece chi ha il potere nel momento in cui qualche suddito alza troppo la testa, e interviene, si sa, mettendo in grave difficoltà, no? Facendo morire spesso, purtroppo, coloro che hanno alzato la testa. Ecco, si può dire questo, no? Riprendendo in parte anche Deleuze, la nostra società è una società del controllo, è una società di una comunicazione sempre più sofisticata, rispetto alla quale è difficile fuggire, no? È difficile evitarla per quelli che sono i suoi regimi di conformazione. La nostra è una società di controllo, il mitico, il vecchio Deleuze diceva, bisognerebbe, non so come, cercare di costruire degli elementi, dei momenti di non comunicazione, per evitare appunto di rimanere schiacciati, vittime di quella che qualcuno ha definito recentemente come infocrazia. No, la nostra società è una società infocratica, dove l'informazione è assolutamente centrale in quanto veicola il valore del nuovo che si ripropone come tale incessantemente, passa velocemente e poi si ripropone incessantemente. Però al di là di questo, Deleuze, quando parlava di società di controllo, e noi abusiamo di questa formula, no? Ne parliamo spesso, suggeriva anche qualche cosa che forse oggi è importante sottolineare, cioè che dei caratteri della società di sovranità, vale a dire la centralità un po' mascherata ma neanche troppo della morte come principio di organizzazione di quella società, no? Questo carattere qui sta tornando fuori, viene fuori in maniera prepotente anche nella nostra società, nella società del controllo, dei caratteri, delle caratteristiche di una società passata, no? Che abbiamo, crediamo di aver liquidato, che veramente appartenga a un tempo remoto, alcuni caratteri, alcune caratteristiche vengono fuori, ritornano alla ribalta anche nel nostro tempo, nel nostro presente, nel momento in cui la nostra società, la società del controllo, trova degli sviluppi che sono degli sviluppi estremamente complicati, estremamente sofisticati. Abbiamo parlato prima di guerra, cioè della modalità più esasperata possibile, no? Di trattare e di concretizzare il futuro. Ecco, la guerra che cos'è se non la messa in evidenza di un ritorno di centralità del principio della morte, che era il principio chiave della società di sovranità nella prospettiva foucaultiana, no? E questo è un bel punto, secondo me, di riflessione, no? Perché nella società del controllo ritorna fuori in questa maniera così importante, così purtroppo terrificante, terribile, tale centralità? Perché? Domandiamoci perché. Domandiamoci perché. Altro punto interessante, sempre rimanendo sulla scia anche delle cose dette da Cristina e da Andrea, ovviamente in maniera molto più chiara rispetto a come posso intervenire io, un altro punto importante, la nostra società, Andrea ha fatto riferimento al nostro capitalismo, nostro si fa per dire tra virgolette, come capitalismo delle piattaforme, no? Qui mi piace ricordare un amico purtroppo scomparso che su questo tema aveva scritto pagine importanti, no? Benedetto Vecchi, insomma, che aveva ripreso un po' di letteratura, ma insomma era stato molto molto molto sintetico in maniera apprezzabile e ci aveva fatto, a me aveva fatto capire insomma che cosa fosse, che cosa sia questo capitalismo delle piattaforme. Diciamo più banalmente capitalismo digitale. Diciamo che il nostro capitalismo, per molte delle ragioni dette da Cristina e poi in modo netto, chiarissimo da Andrea, il nostro è un capitalismo digitale. Ecco, rispetto a quelli che sono i tratti, i caratteri del nostro capitalismo digitale, direi che il suo effetto, il suo investire ciò che noi siamo, appunto come soggettività, come esseri umani, no? Il suo investire ciò che noi siamo ci restituisce a una necessità che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, cioè di indossare una veste, un abito identitario, di avere un'identità che si qualifica, si deve qualificare per ragioni sottolineate come una identità digitale. No? La nostra è, deve essere una identità sempre più digitale. Cosa significa però, su un piano, qui mi scuso, più propriamente filosofico, indossare un abito digitale? Significa, come è stato scritto, come è stato detto, non invento niente, che in fondo il soggetto contemporaneo, ciò che noi siamo, risulta essere tentato da una sorta di messa a valore di una sua specificità di ordine, riprendo sempre i francesi, di fatto scissa, per non dire schizofrenica. Io ho trovato molto interessante, molto, molto intelligente, quello che degli amici hanno scritto, hanno ribadito sul fatto che noi siamo dei soggetti digitali. Ecco, se pensiamo a questa veste, a questo abito, a quello che significa poi concretamente, materialmente, nei nostri modi di lavorare, nei nostri modi di vivere, di relazionarci, se pensiamo concretamente a tale veste, no, scherzando si potrebbe dire che l'abito, la veste digitale, in fondo si posiziona nei nostri confronti come una volta eravamo abituati, quando facevamo catechismo, l'oratorio da piccoli, no? Come una volta era pensato e raffigurato l'angelo custode, no? L'abito digitale, l'identità digitale è il nostro angelo custode, eh? È un'identità, diciamo, che noi sentiamo, viviamo e avvertiamo sotto tale forma, come un supporto, un sostegno inevitabile che in un qualche modo ci può permettere una collocazione, si fa per dire, abbastanza positiva negli spazi nei quali siamo tenuti, portati e tenuti a vivere, no? Spazi di affettività, spazi lavorativi, spazi relazionali, spazi nei quali ne subiamo di tutti i colori. Ecco, questo è un altro elemento interessante, però lo metto tra parentesi, no? Mi piace questa idea, no, della digitalizzazione della nostra sensibilità e della nostra intelligenza, no, che compensa difficoltà di relazione in modo tale appunto da sentirci con tale qualifica sotto veste digitale della nostra sensibilità e della nostra intelligenza rafforzati, accompagnati, per dirla scherzando, custoditi o comunque ben vestiti da ciò che appunto ci portiamo dietro, siamo tenuti a portare dietro nei nostri modi di lavorare, nei nostri modi di relazionarci. Chiudo la parentesi un po' scherzosa. L'altro punto direttamente riferito al discorso, in ogni caso, dell'identità digitale, del capitalismo digitale. Ma vogliamo prima o poi, senza paura di essere tacciati di risultare un po' troppo reattivi, per non dire reazionari, vogliamo prendere sul serio questa qualifica del nostro capitalismo e portare avanti un discorso di critica radicale del digitale? Vogliamo portare avanti un discorso di critica del digitale, riconoscendo, come scrive un autore molto interessante e molto stimolante, Jonathan Crary, riconoscendo che questo protagonismo del digitale di fatto a che cosa si accompagna concretamente, materialmente, no? A un fare letteralmente terra bruciata dei nostri paesaggi di vita, dei nostri contesti, spazi di esistenza, a fare del nostro pianeta terra bruciata, perché appunto poi questo digitale, anche nelle sue manifestazioni più sofisticate, no, che passano, vengono spacciate come immateriali, da qualche cosa deve essere alimentato. E l'alimentazione, no, che cosa produce concretamente e materialmente? Il farsi del nostro pianeta, il restituire la nostra terra come una terra bruciata, sempre più impoverita, sempre più saccheggiata, sempre più depredata, avvilita, insomma, nella pluralità e nella ricchezza delle forme di vita, no, che sarebbe, le sarebbe propria. Fare terra bruciata, che è ciò che accompagna lo sviluppo del capitalismo digitale, lo dico questo su un piano concreto, politico, insomma, materiale, fare terra bruciata però significa anche, di fatto, dato che, come ha sottolineato Andrea, noi siamo esseri di apprendimento, siamo esseri di relazione, fare terra bruciata significa letteralmente, no, passare su un piano che vede anche la terra bruciata, no, investire quella che è la nostra specificità. Fare terra bruciata non è qualche cosa che riguarda soltanto la realtà esterna, la realtà del nostro pianeta, riguarda ovviamente, banale, scontato dirlo, anche noi, no? Anche la nostra internità, anche la nostra sensibilità e la nostra intelligenza vengono, per così dire, rase al suolo, no? Inaridite in prima battuta, bruciate letteralmente. Ecco, qui c'è un autore che è un critico radicale, che insomma non si limita a dire la solita pappardella sul fatto che le tecnologie di per sé sono neutrali, sono innocenti e si tratta semplicemente di andare a vederle un po' meglio nel loro utilizzo. No, chi ha studiato storia delle tecniche sa benissimo che per quanto riguarda le progressioni tecnologiche, se è andata in una certa direzione per ragioni, per cause concrete e materiali, ma si sarebbe potuto andare nel momento della individuazione di un determinato obiettivo, di una certa direzione, anche in una direzione completamente diversa. Quindi perché dobbiamo consegnare la nostra intelligenza e la nostra sensibilità, no, a un indirizzo, a una progressione tecnologica che letteralmente ci fa fuori la nostra vita su questo pianeta, fa fuori la Terra, brucia la Terra e bruciando la Terra brucia anche la nostra sensibilità e la nostra intelligenza. Ecco, questo lo dico perché per quanto riguarda il nostro ambito di attenzione e di interesse, si ripropone spesso e volentieri anche da parte di amiche e di amici una tenaglia che non è semplicemente una tenaglia teorica, ma che ha anche valenza politica, che è costituita da una parte da un atteggiamento malinconico nei confronti di un venir meno di senso rispetto a quello che si fa e a quello che si vive. Da una parte c'è questo e dall'altra parte, come è di fatto poi un classico del pensiero borghese fin dalle sue origini, che si vuole minimamente reattivo, dall'altra parte, rispetto al polo della malinconia, che è del tutto accettabile, non voglio dire che sia un errore tragico, dall'altra parte l'altro polo è quello della rassegnazione, no? Malinconia e rassegnazione costituiscono una tenaglia incredibile, pensata a volte anche scioccamente come ciò che può tirare fuori qualche chiodo, no, che sta dentro la nostra sensibilità e la nostra intelligenza e che ci fa male. No, rassegnazione e malinconia è appunto una coppia, è una tenaglia rispetto alla quale bisogna prendere, io che sono un teorico della disattivazione lo dico, bisogna prendere però veramente fino in fondo posizione. Né malinconia né rassegnazione. Né malinconia di fronte a una perdita di senso nei nostri spazi di esistenza, nei nostri spazi di vita, perché questa perdita di senso è qualcosa che invece va colta nel suo valere, nel suo valore, in quello che appunto è la sua funzione, come ci ha ricordato prima Andrea nel suo intervento, né malinconia né soprattutto rassegnazione, no? Qui va sempre ricordato il buon Beckett, no? quando dice ho provato, ho fallito, proverò di nuovo, cercherò di fallire meglio, che mi sembra una buona battuta da tenere comunque ferma sempre e comunque rispetto ai teorici che appartengono anche al nostro ambito, al nostro campo, ai teorici della malinconia e insieme però della rassegnazione. La malinconia mi sta bene, figuriamoci, no? Ho studiato per una vita Walter Benjamin, quindi va benissimo la malinconia. La rassegnazione mai. È la tenaglia messa a valore dal pensiero borghese quando cerca di sviluppare, quando ha cercato storicamente di sviluppare uno straccio di autocritica, ma al servizio di quelle erano le sue ragioni di predominio e di prevalenza, non al servizio di qualcun altro. Ultimissimi punti perché sono lungo. Ecco, mi è capitato un paio di giorni fa di parlare con un'amica, una studiosa, di un suo libro molto importante, l'amica è Valentina Antoniol, centrato sul rapporto tra Michel Foucault e Carl Schmitt, no? Ecco, Parlando con questa amica, rilevando appunto la traccia della lettura dei testi schmittiani nella ricerca, no, foucaultiana, tracce che sono presenti negli archivi che conservano tutti i materiali foucaultiani, mi è venuto in mente un pensiero un po' balzano, insomma, con cui voglio chiudere, cioè che prendiamo questi due campioni del pensiero novecentesco, uno un po' antipatico, diciamo così, un custode non della Costituzione ma dei poteri in ascesa, vale a dire Carl Schmitt, no? Vi ricordate tutti, Carl Schmitt è un teorico, no, della guerra, cioè è un teorico del rapporto amico-nemico, no, come base, supporto di sostegno per il delinearsi del politico, no? Diciamo così, però l'insistenza di Schmitt non è sulla figura dell'amico, è sulla figura del nemico, no? È la figura del nemico a contare, no? A essere irrilevante fino al punto tale che quando lo è troppo, allora si può anche arrivare a delle conclusioni che poi storicamente, no, abbiamo conosciuto, conosciamo un po' tutti. Michel Foucault è un teorico del conflitto contro la guerra, no? E essendo un teorico del conflitto, cioè del fatto che non si può pensare la società umana senza il conflitto, essendo un teorico del conflitto, la sua attenzione, permettete la forzatura, non va alla figura del nemico, ma va alla figura dell'amico, come figura di combattimento, come figura instabile, come figura elastica, come figura che al suo stesso interno può manifestare e esprimere dinamiche che sono dinamiche di conflitto, di combattimento e di lotta. Ecco, a me piace pensare una possibilità di coltivare l'amicizia, nel senso alto, in campo nostro, che mantenga fermo nel nostro campo il valore e il valere del conflitto proprio nelle relazioni e nei rapporti, anche tra di noi, no? E questo forse è un modo per prendere posizione nei confronti di quel carattere che ho cercato di presentare all'inizio di questo intervento, un po' così, un po' buttato lì, no? Di sopravvivenza di elementi fondamentali della società di sovranità, diciamo della società premoderna, tra virgolette, nel nostro mondo. E qual è l'elemento chiave? Lo viviamo tutti i giorni, basti pensare alla guerra alle porte di casa, alla Palestina. Qual è l'elemento chiave? È la centralità della guerra, è il far valere a tutti i costi il principio della morte, no? Come principio di sostegno e di supporto per l'articolazione di un modo perverso, devastante e terrificante di fare politica. Ecco, anche nei confronti di questo nodo, diciamo buttato lì, scusatemi, un po' troppo astratto, un po' troppo teorico del rapporto tra Schmitt e Foucault, gettare uno sguardo un pochino più attento a Foucault ce lo fa vedere, ce lo fa rivedere come un nostro compagno e amico nel momento in cui dice no alla guerra, sì al conflitto, perché sto dalla parte dell'amico, ma non come figura di stabilizzazione, non come figura di supporto, di sostegno, di conferma di ciò che si è, ma come partner, diciamo così, di movimento, di cambiamento, di trasformazione dei nostri modi di pensare e di sentire. L'ho fatta lunga, mi scuso. Occhio alla pioggia, bravo Baldo. Vieni Lucia, vai in precetto. Grazie Ubaldo. Sperando che il tempo tenga ancora un po', dobbiamo scappare tutti. Io passerei subito la parola a Lucia Tozzi, soprattutto perché siamo a Milano, questa iniziativa parte qui proprio a Milano ed è a mio avviso un'assunzione, no, di tutt'altro che rassegnazione, ma un rilanciare in avanti, di rilanciare, perché altrimenti rassegnazione e malinconia unite producono solo rancore e risentimento. Prego Lucia. Grazie. Ma in realtà qua a Milano noi siamo in questa città devastante dal punto di vista dei modelli proprio di estrazione del capitalismo. È vero anche che però in questo momento in Italia forse è uno dei posti dove almeno è rinato un dibattito, cosa che prima non che prima invece mancava assolutamente. Diciamo, negli ultimi anni c'è stato un tasso di censura fortissimo. Quando invece capito in altre città, effettivamente la presa di consapevolezza del fatto che, insomma, bisogna mettere in discussione una serie di politiche sulla casa, sulla rendita e sull'espulsione, sulla desertificazione urbana, e il tasso è molto più basso tendenzialmente. Regna ancora fortissimo un'ambivalenza tra l'idea di tutto sommato, però qualcosa bisogna che si muova, qualcosa in fondo comunque un po' di sviluppo. Cioè, siamo ancora un'idea sviluppista in cui non è molto chiaro a che cosa porta questa crescita e questo modello in qualche maniera che qua si declina. Soprattutto non qui almeno è stato messo a nudo per una fetta più grande della popolazione che cosa significa questa attrattività che apparentemente era così interessante per una città, che apparentemente doveva rendere così interessante una città e che invece l'ha resa probabilmente molto meno interessante, cioè ha spento, ha appiattito, ha desertificato, ha omologato quasi tutto quello che in qualche maniera ne costituiva gli spiriti più autonomi, più ribolletti. Allora, io credo che comunque siamo in una situazione, ci troviamo tuttora in una situazione fortemente censoria, perché per esempio non c'è dubbio che si parla, ora finalmente si parla del problema della casa, si parla finalmente del problema dell'abitare che è diventato insostenibile in modo esteso, però tutti i movimenti che sono nati in questi anni, tutti i comitati che si sono opposti a una forma di rigenerazione urbana che si propone appunto come un fatto assolutamente positivo, ma di fatto continua a consumare aria, continua a consumare le nostre energie di fatto. Tutto sommato, quando sono venuti al pettine anche i nodi più duri anche sulla questione giudiziaria, su queste inchieste giudiziarie che in questo momento stanno mettendo in difficoltà il sistema della rigenerazione milanese, in cui si costruiva in un sistema di totale facilitazione, senza più un vincolo. Tutto sommato non si è riusciti a unirsi, e fino ad ora almeno, a unirsi e far emergere una reazione forte, e non si è riusciti neanche a fare capire al di fuori di questa città che cosa qui sta succedendo, perché effettivamente la censura c'è ancora, cioè i propri giornali non ne parlano, quando ogni tanto da fuori qualcuno dice ma ho sentito che c'è un decreto di Salvini salva Milano, ma in che senso? Cioè proprio non si è capito che qua stava succedendo qualcosa di molto grosso, una cosa che poteva mettere veramente in difficoltà il sistema, e talmente non si è capito che infatti Salvini e Sala hanno fatto in tempo a collaborare spalla a spalla senza che neanche se ne parlasse, in cui Sala poteva ancora fare finta di essere in qualche modo il rappresentante della sinistra che resisteva al fascismo, e quell'altro ha potuto continuare a fare finta di essere una destra, eccetera. Mentre hanno collaborato attivamente sia sul fronte appunto della legalizzazione di questa speculazione edilizia, proprio che fa quasi impallidire gli anni del sacco della città, delle mani sulla città, eccetera, e dall'altro lato in questa operazione che sta andando avanti della privatizzazione del sistema di case popolari, del patrimonio di case popolari che sta andando avanti. Adesso speriamo con grande difficoltà, però di nuovo questa giunta e Salvini sta procedendo a mettere a punto un modello per privatizzare l'intero blocco di case popolari e venderlo attraverso la società Invimit, e che sarebbe una cosa devastante, ma di cui a stento fanno fatica a rendersi conto i sindacati, non diciamo gli abitanti che vengono sfrattati numerosissimi in questa città e che diventeranno molto più numerosi se questa legge e questo modello vengono messi a punto. Allora, effettivamente, abbiamo ancora un grossissimo problema di, ripeto, molto di censura, ma anche di collaborazione, di attivazione politica coordinata, insomma, in qualche caso, di composizione, come si direbbe in termini più colti. Ma questo perché io forse in parte dissento da una visione che parla solo di una società del controllo basata su grande tecnologizzazione e quindi conseguente totale atomizzazione, perché questo tipo di contrapposizione, di rappresentazione, in qualche modo configura dei grandi cattivi anonimi, cioè quel capitalismo di piattaforme è qualcosa, sì, sappiamo che esiste Airbnb e che c'è un capo di Airbnb, però insomma, vabbè, possiamo dire, certo, odiamo tutti Elon Musk, odiamo tutti Jeff Bezos, però diciamo sono un po' troppo grandi come cattivi. E dall'altro lato tutti noi certo collaboriamo, ma non ci sentiamo, nessuno di noi si sente atomo insensibile, chiuso nella sua stanza, inattivo, completamente impotente. Cioè, ce ne sono molti, ma insomma, in realtà quello che conta moltissimo per il capitalismo contemporaneo, a mio modo di vedere, è invece sono proprio gli intermediari, le reti fatte da quelli come noi. Noi siamo un elemento preziosissimo di questa catena. Loro hanno bisogno moltissimo negli ultimi secoli, di rappresentarsi come buoni, come filantropi, come promotori di un benessere sociale. Prima non era così, per molto tempo non è stato così. La filantropia è una cosa che è andata fortissima agli inizi, cioè a fine 800, inizio 900, eccetera, poi a un certo punto non andava così. Alla fine sì, c'erano già le fondazioni Rockefeller, c'erano i grandi capitalisti americani che facevano i musei più belli che possiamo vedere negli Stati Uniti, tendenzialmente sono stati fondati dai peggiori capitalisti di quel tempo, però tendenzialmente i capitalisti erano quelli che si arricchivano e guadagnavano e secondo loro portavano sviluppo, e invece poi diciamo gli altri erano liberi di contrapporsi, almeno mentalmente. Invece adesso, come diceva prima Cristina, il capitalismo è fortemente ancorato alla parte della riproduzione, come diceva anche Andrea, cioè fa anche a meno del lavoro. Cioè, al capitalismo interessa catturare proprio quelle energie riproduttive, quelle energie sociali, quelle energie politiche, quelle energie organizzative, auto-organizzative, di cui diciamo qua vediamo sicuramente molti rappresentanti. Cioè, al capitalismo interessa proprio andare a catturare i nostri linguaggi, le nostre idee e rivoltarle e appropriarsene, circonfonderle di ambiguità, usare queste parole in modo totalmente stravolto, creare appunto linguaggio altro, che è però anche anche proprio direttamente irregimentare tutta questa forma di organizzazione al proprio servizio, in modo da neutralizzare completamente ogni forma di politica. Il grado di cooptazione, di sussunzione che c'è adesso è incomparabile rispetto a altri momenti storici, secondo me. E questo è particolarmente vero quando andiamo poi a analizzare i rapporti tra le politiche e i luoghi, le persone e i luoghi. Allora, noi siamo da un lato totalmente nomadizzati, totalmente globalizzati, cioè ci siamo abituati, anche i migliori di noi, a pensare che dobbiamo senz'altro viaggiare ovunque, ma anche scegliere dove vivere. E questa cosa, da questa scelta dipendono una serie di successi e insuccessi della propria vita di battaglia. Per cui una delle cose che ci viene sempre detta, appunto, se le cose vanno male, non è perché si viene governati male, le cose non funzionano, cioè hai scelto male anche la città. Cioè, tra le varie cose di cui veniamo colpevolizzati, come diceva prima Cristina, è anche il fatto che eventualmente noi non siamo stati abbastanza dinamici, non abbiamo saputo metterci in gioco, non siamo usciti dalla nostra comfort zone. Perché non sei andato in Giappone a fare questo, quell'altro? Perché, ecco, questa cosa qui si traduce poi materialmente in una serie di fenomeni violentissimi di spostamenti, che non sono solo le grandi migrazioni dall'Africa o nei paesi quelli dove ha il peggior effetto, non so, il land grabbing oppure il clima, ma anche quelle interne ai paesi, per esempio interne ai paesi europei. Noi adesso siamo nel pieno di una quarta ondata migratoria, per esempio dal sud Italia al nord o al resto dell'Europa, ed è la più devastante di tutte, perché non ha più quell'economia delle rimesse che caratterizzava le antiche migrazioni, che erano più simili, diciamo, ai movimenti internazionali contemporanei, cui la gente le persone emigravano e poi rimandavano i soldi a casa, e quindi in qualche maniera almeno ricompensavano della propria partenza il paese da cui partivano, anzi alimentavano nuove economie di rimessa, ma anzi invece devono essere sostenuti. Quindi partono i giovani, partono le risorse migliori, e in più sono seguiti da investimenti che depauperano ancora di più i paesi di origine. Quindi, per intendersi, tutto questo gloriarsi che c'ha Milano del fatto di catturare gli studenti di tutta Italia, è un'economia di rapina, è una vera e propria economia di rapina, perché significa che gli studenti non hanno più la scelta di rimanere nei luoghi, diciamo, dove vivevano. E questo è uno dei tanti esempi, e naturalmente è equivalente, se si vuole, è una nuova edizione delle vecchie migrazioni, però ancora più crudele, ancora più, mi sa che dobbiamo andare. Che facciamo, ci trasferiamo dentro? Ci trasferiamo, chiediamo come possiamo fare, non ci riusciamo perché lo spazio è occupato da stand. Sta piovendo già? Sì, sa che sta arrivando. Lascerei magari finire, Lucia, no? Sì. Sicuro, perché mi sembrava che c'era proprio... Per i libri si bagna. Vabbè, comunque, quello che intendo è quello che ci porta a non cogliere queste cose, che noi stessi siamo iscritti in un'economia del consumo degli spazi e delle città. Cioè, noi pensiamo di dover scegliere, e da che da questa scelta dipendano queste cose. Dopodiché, dovendo continuamente spostarci, avendo iscritto in un sistema di ideologico positivo l'idea, cioè avendo assolutizzato la positività di questo nomadismo generalizzato, effettivamente il legame tra le persone e i luoghi diventa assolutamente impalpabile. E questo non perché io pensi che, io non l'ho mai pensato, che le politiche debbano essere iscritte nelle piccole comunità radicate nei luoghi, non è questo il punto, non è un punto reazionario, non è un punto nostalgico legato a chissà quali posti, però dove effettivamente diventiamo tutti turisti permanenti. Noi siamo in un sistema in cui anche nei movimenti non facciamo altro che fare turismo. Anche i anche gli spazi antagonisti tendono a imitarsi l'uno all'altro sul modello internazionale e poi a essere iscritti in un sistema che mano a mano li trasforma in centri di innovazione culturale e sociale. Allora, così come, non so, quando per esempio ci sono quelle forme di ribellione al sistema urbano della rendita e al sistema di sfruttamento tipicamente urbano della classe creativa, e ci sono persone che, diciamo, gruppi di persone... Scusate, aiutateci però, perché Lucia sta parlando, con la pioggia c'è grande rumore, se ci aiutate riusciamo... No vabbè, ma tanto, no, ripeto, secondo me... Sono tutti a nascondersi sotto il porto. Ho capito, ma poveracci, li no. Capisco, basta l'autosacrificio. No, no, comunque quello che è importante è che alla fine il motivo per cui, cioè i due grandi movimenti per cui non riusciamo a fare composizione, da un lato sono dovuti a questa specie di, ripeto, di frammentazione, diciamo, e dispersione. Noi non c'è un'instabilità tale per cui ognuno di noi fa parte di infinite reti e ognuno di noi fa parte di infiniti luoghi, però alla fine il tempo di vita è limitato, nessuno riesce così tanto a portare a sintesi le relazioni reali per fare politica. Questo da un lato. Dall'altro lato, il capitalismo in qualche modo odierno, le forme contemporanee, quelle molto legate appunto a quello che si chiama anche ESG, oppure che chiamano capitalismo woke, in qualche modo legato alla rappresentazione di se stesso come buono, come filantropico, eccetera, cattura queste forme di reti, di relazioni, e proprio le sussume, le trasforma a proprio favore, a proprio piacere, le trasforma in forme di partecipazione rappresentate, in forme di comunicazione immediatamente produttiva, cioè non collateralmente, diventa centrale. E purtroppo veramente in qualche maniera costringe queste varie forme di lotta, che siano forme di lotta identitarie, che siano forme di lotta diciamo per di qualunque forma, per l'ambiente, per la sostenibilità, per alcuni pezzi di territorio, orientate al riconoscimento, le trasforma oggettivamente in qualcosa di immediatamente produttivo, in una parte centrale della propria produttività. Questa cosa è importante e secondo me è centrale, perché diciamo in qualche maniera è riconoscibile se noi la riconosciamo, se la portiamo a critica. È qualcosa con cui ci interfacciamo personalmente e che in qualche modo ci dà occasione anche di fronteggiare e ostacolare il capitalismo. Cioè, tutte le volte che si riesce a fare venire a galla la falsità della rappresentazione dei mille progetti di greenwashing, pinkwashing, social washing, la probabilità che questi progetti falliscano, si ritirino, o cadano, si smorzino, è altissima. È successo qua, è successo con San Siro, per esempio. è successo, forse, non voglio essere ottimista, però parzialmente è successo con Loreto, il progetto di piazzare Loreto, dove era venuto l'ex assessore Ciellino Masseroli, l'ex assessore della Moratti, in prima persona a occuparsi delle relazioni sociali, di finta partecipazione, per dimostrare che una grande multinazionale come Auchan si occupava direttamente delle comunità intorno a via Padova. Quando è cominciata anche una blanda opposizione, perché non possiamo dire che c'è stata una grande opposizione al progetto di Loreto, che ha smascherato, o comunque che si è opposta alla retorica della Loreto, delle associazioni, la Loreto partecipativa, la Loreto per gli abitanti, a un certo punto questo progetto ha cominciato a traballare, a essere rimandato, non si sa più, non ci sono più tante voci, non ci sono più tanti incontri di LOC. Naturalmente, ripeto, sono tendenzialmente, per ora noi vediamo piccole vittorie in un sistema in cui Stefano Boeri vince un progetto al giorno di le aule boscose, il villaggio boscoso, la torre verde, tutto, la riforestazione, il muro forestale, non so, nel deserto asiatico. Ecco, cioè, per carità, è chiaro che non sto dicendo che in questo momento qui stiamo vincendo la guerra, però stiamo vedendo come in un sistema reputazionale come è questo del nuovo capitalismo, fortemente reputazionale, dove appunto è necessario mostrarsi come operativamente attenti al verde, attenti alla sostenibilità, attenti alla sostenibilità sociale, ai valori LGBT, alla multiculturalità, eccetera, in questo sistema lo smascherare, il riconoscere puntualmente questi intermediari, questi nemici che portano le nostre istanze al capitale, smascherandoli si ottengono ci si impadronisce di un dispositivo, di un'arma abbastanza efficace, importantemente efficace. Naturalmente il capitalismo è molto veloce, noi siamo lenti, questo è il problema, siamo molto lenti. Le prime opposizioni visibili alle Olimpiadi sono avvenute quando i cantieri del villaggio olimpico erano già ben avviati, e questo è il nostro difetto, noi dobbiamo essere più rapidi e più compatti. Non lo siamo perché l'ostacolo a essere, ripeto, è un po' questa dispersione, questo veramente distacco, questa distacco tra le persone e i territori. Non c'è dubbio che questa instabilità rende tutto molto più difficile. E dall'altro però c'è una sorta di resistenza a non riconoscersi, cioè ad accettare di non essere totalmente buoni, cioè a nostra volta. C'è questa resistenza a non voler riconoscere nell'amico un potenziale oggetto di conflitto, per esempio. Noi non discutiamo molto meno delle contraddizioni che ci possono dividere. Si discute più facilmente adesso di Palestina, ma ancora si fa fatica a discutere di Ucraina e Russia. Abbiamo fatto una fatica enorme a parlare di Covid, delle contraddizioni generate dal Covid, dai regimi di controllo spaventosi inaugurati in quegli anni. Io spesso vengo aggredita rispetto a quello che scrivo, dice: va bene, ma allora dove sono i buoni? Ma perché dobbiamo vedere... perché dobbiamo cercare i buoni? Chi è che vuole essere buono? Io poi personalmente non è che ci tenga in modo particolare a essere riconosciuto come i buoni. Mentre, e questo non dipende solo dal capitalismo, delle piattaforme, ma dipende anche dalla sussunzione del capitalismo woke, cioè proprio dal wokeismo, da quella... specie di istituzione neo-vittoriana che sono le cultural walls, tendiamo a volerci identificare sempre in una sfera di bontà assoluta, e questo è un grossissimo ostacolo alla composizione politica. Io mi fermo qua perché non vorrei farvi annegare. Grazie Lucia, grazie. Allora, ringraziamo Lucia, facciamo i conti col tempo, vediamo un po', perché mi piacerebbe tanto che potessimo continuare a discutere, ma temo che siamo in emergenza. Ha smesso? Oh, bene, allora io un attimo solo, pardon. Passiamo la parola a tutti, siamo qui per questo. No, volevo solo aggiungere che insomma su questa dimensione del conflitto che Lucia giustamente ha sottolineato, c'è un problema forte dei sistemi di sussunzione e omologazione, che è quello, da un po' di tempo, il Covid a mio avviso è stato un acceleratore, di aver bisogno di adeguarsi costantemente, di temere il conflitto come qualche cosa di veramente mortifero e non come elemento, strumento di chiarificazione. Perché poi magari le alleanze e le amicizie, no? Sono anche qualche cosa che va costruito necessariamente attraverso il conflitto. Non può passare nella sopportazione un po' triste, malinconica, come si è visto prima. Allora, io, siccome vorrei che tutti potessero esprimersi, chiederei a tutti di venire qui, che passo il microfono, e magari di fare domande mirate in modo che ci possiamo consentire di chiacchierare un po' assieme ancora. Prego. Sì. Necessariamente sì. Se non parli al microfono non ti sentiamo. Gira. No, perché il venire qui vuol dire perdere il piano di realtà, perché voi dite che piove, ma in realtà non piove, quindi non sapete bene. No, beh, ero una stupidata. No, volevo dire che ti farei un monumento, nel senso che credo che ciò che hai detto è, insomma, io ce l'ho a morte con i miei simili. Sono molto arrabbiato con i miei simili. Io sono cresciuto in questa città e facciamo degli esempi, non so, il Cinemanteo. Oppure, non lo so, l'Elfo, Cinema Elfo. Io sono cresciuto tantissimo quando sono andato a vedere La Bottega del Caffè di Elio De Capitani, mi ha cambiato la vita, mi ha fatto clic il cervello. Ma andate a vedere che cos'è che fanno adesso questi signori. Il Cinemanteo ha nominato tutte le sale, cannibalizzando le sale che avevano dato a me la vita. Cioè io sono cresciuto all'Obras Cine Studio, sono cresciuto alla Cineteca Italiana. E adesso io vado all'Anteo, che era il cinema alternativo. Io scherzavo con i miei compagni di scuola e dicevo andiamo a vedere un'anteata, non so, erano film insomma fintamente di un'altra di, autonomi, cioè, okay. Però in qualche modo mi permettevano di vedere, di alludere a un mondo altro. Allora tutti questi signori, non so, Antonio Ricci, io sono cresciuto con le trasmissioni di Antonio Ricci, L'Araba Fenice, ce n'erano una serie di questi, e Antonio Ricci invece adesso è l'autore di Striscia la Notizia, che è la punta di diamante. Cioè, quando io vedo uno col microfono che insegue qualcuno, io sono subito dalla parte di quello che scappa, sempre, perché è allucinante la retorica di questa roba qua. Non sto dicendo che sono dalla parte degli stupratori, attenzione, ok. Allora, quello che però, allora, questa cosa, non so, pensate a Umberto Eco. Umberto Eco, cosa vi viene in mente di Umberto Eco? È un grande, giusto? Benissimo. Umberto Eco, da quando ha pubblicato Il nome della rosa? Una catastrofe. Come è morto? È morto facendo una casa editrice con Elisabetta Sgarbi. Ma ragionate un po' su che cos'è questa roba. Questa è la parabola del nostro fallimento. Io preferisco Berlusconi, che insieme ai suoi amici ha fatto cose, piuttosto che noi che abbiamo fatto minchiate continuando a sentirci in colpa o parlando di cose alludendo a possibilità che ci siamo così svaporizzati. Infatti tu cosa dici? Dici che noi anzitutto possiamo essere critici. Ok, allora io però mi rivolgo a voi, perché voi siete quelli, siete gli intellettuali che state in qualche modo, non è una parolaccia, ok? No, perché in televisione una volta uno ha detto lei è un intellettuale, quello si è incazzato, cioè anche questo è una cosa che andrebbe in qualche modo rivista un pochino. Allora io mi rivolgo a voi e dico, ma voi, tu sei una giornalista, io ti farei un monumento perché hai detto una cosa giusta, ma è una cosa che si poteva dire negli anni 70 questa. Siamo ancora qui a dirci queste cose qua. Cioè noi abbiamo perso la verbalizzazione, la capacità di scambio, che è l'unica cosa che ci poteva permettere di crescere intellettualmente. Quello che diceva Pasolini sulla cultura dell'antagonismo, sulla cultura della quando parlava dei cappelloni e diceva questi signori qua, o quando ce l'aveva con quelli che andavano a fare le manifestazioni, lui diceva io sono dalla parte dei celerini. Allora questo tipo di critica noi non ce l'abbiamo, ma non siamo neanche cresciuti su questa roba qua, quindi noi adesso siamo qua, voi siete bravi, voglio dire, fate un lavoro importante, ma ci siamo persi 30 anni su questa roba qua. Tu adesso dici che dovremmo metterci insieme, ma negli anni 70 mi poteva andare bene questa cosa. Cioè Guglielmi quando ha fatto Rai 3 ha fatto una roba importante, senza Rai 3 io non sarei qui a parlarvi, sei d'accordo? No, quello che voglio dire, allora la mia rabbia e il fatto che io sia arrabbiato è perché io vado al piccolo teatro e vado a vedere delle cagate spaziali. Sono andato a vedere Presenti Indicativo, ma nessuno che scrive una minchia sul fatto che lo spettacolo punta di Presenti Indicativo era una roba allucinante, tutto giocato su una produzione. Chi l'ha visto? Chi è andato a vedere lo spettacolo? Era lo spettacolo di punta. Avete presente? Vabbè, ok. Allora, quello che voglio dire. Concludo. Va bene. Allora, la conclusione è. Sì, va bene, però. La conclusione è semplice. Allora, io a voi che siete i portatori di contenuti, è da lì che si deve ripartire. Cioè, un lavoro di critica. Il film della Cortellesi parlerà anche di cose importanti, ma è una cagata tremenda. È bruttissimo. Non si può vedere quel film lì. Non l'ho visto. Ma nessuno che lo dice, nessuno che non voglio dire che devono pensarla come me, però manca la critica. No, ma infatti sono d'accordo, non ho capito in che senso si poteva fare negli anni 70 e non adesso. Voglio dire che questa perdita di dialettica, sì. Cioè il sistema è andato avanti moltissimo nell'omologazione, sì. Perché ha affinato strumenti, ha affinato un linguaggio, sì. E con questo linguaggio ci ha bloccato ulteriormente. Sì. Noi che dovevamo portare avanti un antagonismo intelligente non l'abbiamo fatto, non abbiamo portato avanti una dialettica e una verbalizzazione per poter... No, sono d'accordo, però io penso che rispetto per esempio a... Cioè, secondo me questo processo storico effettivamente è andato avanti così per anni, secondo me in questo momento da... una decina d'anni a questa parte, non tanto qui a Milano, in Italia dove si fa un po' più fatica, però è emerso, sono emerse nuove forme di critica che non esistevano, e questo secondo me, questa è la parte secondo me interessante di questo momento qua. Possiamo andare malissimo, possiamo andare benissimo, meglio, benissimo non lo so, ma meglio sicuramente alcune cose. Oggi io vedo, cioè, nella letteratura internazionale delle cose che finalmente hanno rotto alcuni schemi, cioè esiste sempre più forme di letteratura che ci dicono va bene Foucault, va bene Deleuze, va bene tutta una serie di cose, però come sono stati usati in questi anni anche dal nemico è una cosa a cui bisogna fare caso. Cioè, mi ricordo, per dire, 15 anni fa o qualcosa del genere è uscito quel libro di Eyal Weizman su Israele che raccontava come i soldati israeliani, l'esercito israeliano studiasse Deleuze per studiare come invadere meglio la Palestina. Era una cosa interessante. Ora, quello era un caso specifico e anche da storico, però... No, scusate, però diventa un dialogo e questo è un dibattito aperto. No, voglio dire semplicemente che secondo me adesso invece stanno emergendo una serie di studi che mostrano come c'è lei che vuole sono state ci sono state delle convergenze e delle utilizzazioni perverse anche di queste cose qui, e in qualche modo stanno rinascendo delle forme critiche che ci permettono di uscire da certe sacche. Sicuramente un trentennio più o meno, non dico perso, ma deviato c'è stato. Secondo me adesso è un momento però interessante, vale la pena di leggere molto. Ok, c'è lei che vuole la parola, prego. Allora, ammetto di essere una delle giovani che sono state citate all'inizio, e ammetto dire che è anche un periodo tosto per noi, nel senso, io ho fatto... Mi siedo. Io ho fatto un anno e mezzo di università, c'è stata la pandemia, poi esci, c'è stata la guerra in Ucraina mentre facevo il master, poi adesso ancora la questione palestinese, e ritornando anche al discorso del buonismo, mi interrogo anche sull'uso dei social in questa fase di crescita della mia vita, nel senso, tornando forse anche alla questione iniziale di tutto il dibattito del fare politica, volevo chiedere, cioè, quanto ha senso fare politica usando un mezzo come Instagram o i social? Cioè, per me sta anche diventando ok, abbiamo Instagram, quindi abbiamo la possibilità di vedere effettivamente cosa sta succedendo in altri posti del mondo, però c'è anche un sacco di pornografia del dolore, c'è anche un sacco di comunicazione, un eccesso di comunicazione, e io inevitabilmente mi sono allontanata, l'ho dovuto disattivare, perché cioè, credo che sia più importante un momento di dialogo, di trovarsi, discutere, di anche conflitto tra amiche e amici, piuttosto di questa comunicazione eventistica del ok, domani c'è questa cosa, non è ancora finita, ce n'è un'altra, va bene fare politica, però quanto ha senso anche sui social fare così? Io chiedo anche molto a Lucia, ho letto il tuo libro e tutto questo, però mi trovo anche ad essere una persona che si mette in discussione, legge, deve cercare anche un confronto dal vivo, però è difficile, cioè nel senso, stiamo usando, non so, Instagram che è un mezzo privato, i social, facciamo, che tipo di battaglia è? Non lo so, una domanda. Grazie, io continuerei con il giro di micro interventi e domande, così li raccogliamo, evitiamo il botta e risposta. C'è qualcun altro? Valentina, prego. Io volevo fare una domanda a tutti voi, cioè abbiamo visto, cioè, in tutti i vostri interventi era ricorrente questo tema del controllo e di queste società che permeano sempre di più le nostre esistenze. Dicevamo, il lavoro non è più necessario al capitalismo, sono necessarie le nostre vite, i nostri saperi, come diceva lei, vengono utilizzati dal capitalismo stesso per mettere in atto ancora più un sistema di controllo e di un controllo che è sempre più, direi, che si infiltra, no? E che è sempre meno visibile, sempre meno riconoscibile. E allora, tornando un po' al tema anche del dibattito, che era liberare saperi in questa società di controllo, mi chiedevo, in un mondo in cui anche i nostri saperi possono essere utili invece a fare controllo, a creare domini, al capitalismo stesso, come continuare? E in cui anche noi, come diceva lei, spesso non siamo più i buoni, quindi non siamo più, nonostante magari le nostre buonissime intenzioni di produrre critica del sociale, dell'esistente, di mettere in atto conoscenze sempre più affinate, però queste conoscenze vengono poi utilizzate da quello che è, diciamo, il nemico, no? E allora come fare in questo mondo, quindi a liberare questi saperi, a mettere in atto una critica che sia davvero, davvero tale, sia davvero puntuale. Allora, abbiamo ancora una ventina di minuti, per dare le tempistiche. Io continuo a passare la parola, diciamo ancora un 10 minuti per le domande, poi velocissime risposte. Per essere chiaro, comunque ci provo. Tu parlavi prima di nemico, capitale come nemico. È un termine un po' strano, però quello che manca per riuscire a qualificarlo decentemente come nemico, secondo me, è il fatto che non esiste più purtroppo una classe di riferimento, la classe operaia di riferimento, che potesse costituire il collante fondamentale per riuscire a mettere insieme la voglia di iniziativa politica tale per arrivare a costruire saperi condivisi, per arrivare a costruire socializzazione e arrivare a costruire quindi un punto, partendo da un punto di riferimento che è la classe, oggi scomposta e ridotta ai minimi termini. Come diceva la ragazza poco fa, il capitale sembra non aver più bisogno neanche del lavoro manuale, sembra quasi procedere velocemente verso la riduzione del lavoro ai minimi termini, non solo in termini di robotizzazione, ma in termini proprio di scomposizione non più solo della classe, ma anche della pratica lavorativa. Cioè, in sostanza, come arrivare a costruire il succedaneo di una classe che è sempre più ridotta ai minimi termini, tale per cui si riesca a mettere insieme la voglia di stare insieme, creare nuovi saperi, creare lotta di classe sostanzialmente, a fronte del fatto che sembra che una classe non ci sia quasi più. Grazie, altri. Allora io direi che velocemente, ma proprio velocemente, perché poi la fiera, il salone chiude, perché ci rivediamo, lo ricordo a tutti, domattina alle ore 10 e riapriremo tutti i nostri stand e quant'altro, sperando in un tempo clemente. Passo rapidamente la parola, prego, avete il microfono lì se volete. Allora, molto velocemente, ci sono delle cose che mi hanno positivamente colpito di alcune frasi. La prima, che l'ha detta lui mi sembra, è il problema della capacità di scambio, e io credo che questo sia un punto centrale. Quell'identità digitale di cui parlava Ubaldo è un vestito, giustamente, che ci viene dato, non è un vestito che scegliamo, è un vestito che ci viene dato da un'organizzazione che io chiamo la piattaforma. È come se la piattaforma fosse il sarto, e questo sarto dà a tutti noi lo stesso tipo di vestito, che prende forma o colori diversi perché deve essere identitario, ma le modalità di fattura del vestito, il taglio, la forma, sono essenzialmente le stesse. Questa identità digitale ci impedisce di sviluppare una capacità di scambio umano verso umano. Noi abbiamo lo scambio con questa identità digitale, abbiamo lo scambio con i social, abbiamo lo scambio col macchinico. Non c'è più la capacità, se non ridotta in minimi termini, di avere uno scambio sociale nel senso proprio del termine. Questo è lo strumento, il grimaldello attraverso il quale si crea frammentazione, difficoltà di organizzazione politica. E anche il concetto di classe, da questo punto di vista, diventa assolutamente, se ne parliamo al singolare come elemento di ricomposizione, assolutamente velleitario. Mi dispiace, io sarei ben contento se ci fosse la possibilità di individuare un soggetto politico che si fa traino per un processo di trasformazione. Però dobbiamo prendere coscienza che questo, in queste mutate condizioni tecnologiche, sociali, di valorizzazione e anche di relazione umana mediata dalla macchina, è un processo questo molto difficile. È possibile creare una nuova classe? Io penso di sì. Sicuramente non avrà le caratteristiche di quella vecchia. E credo che, e chiudo questo, che la rivolta alla critica digitale, e credo che tu abbia ragione, sia riprendere quella vecchia sana abitudine che c'era negli anni 70, che adesso non c'è più, e questa è la differenza con gli anni 70, che la politica la si fa insieme, la si fa vedendosi, incontrandosi. E qui ci sono una serie di ostacoli, perché non c'è più tempo per incontrarsi, perché tu lavori, la vita messa a valore, tutto il giorno, noi siamo in un'economia dell'abbondanza, poi ci sono problemi di decrescita, tutto il resto di materie prime scarse, ma siamo in un'economia dell'abbondanza di cui l'unica risorsa che è effettivamente scarsa è il tempo. Non abbiamo mai tempo. Questa mancanza di tempo, o noi dobbiamo liberarcelo, trovando tutti gli strumenti che ci permettono di liberare il tempo, reddito, garanzie, maggiori forme di stabilità, minore incertezza, poi possiamo discutere qual è lo strumento più appropriato, non mi interessa individuarne uno o più di uno, no? No? Perché il tempo ci permette, non a caso la lotta sul tempo è stata una delle lotte che ha portato avanti il movimento operaio tra le prime, a partire dalla fine dell'Ottocento, perché era vita, tempo e vita, no? Allora noi se non riusciamo a liberarci il tempo per creare socialità e quindi opporci a modelli dei social, che i social sono la negazione della relazione, cioè è il trionfo dell'individualismo, li chiamano social per un paradosso semantico, perché impediscono che si... Momenti come questi, è stato bello vedere oggi che nessuno, mentre parlavamo, si discuteva, nessuno guardava un cellulare, è raro, se voi andate su qualsiasi mezzo pubblico, tutti, in qualunque momento del giorno, per strada, ma anche quando io faccio lezioni gli studenti guardano il cellulare, non è che... Cioè, e trovare dei momenti di socialità nel senso vero è avere il tempo per svilupparla, per sedimentarla, per organizzare e per fare conflitto. Assolutamente d'accordo. E infatti il social e la piattaforma sono lo strumento di quello che io chiamo il processo di controllo del capitale oggi, è un processo di sussunzione non del lavoro ma di sussunzione della vita, e la vita è relazione, sussunzione della vita, sussunzione vitale è il processo contro cui dobbiamo batterci, che va al di là della sussunzione del lavoro di stampo della fabbrica eccetera, per intenderci. Vabbè, velocissimamente, allora condivido questo elemento che insomma anche io in qualche maniera cercavo di mettere in luce della problematica che noi abbiamo con dei processi di integrazione. Ringrazio Lucia per aver ricordato anche tutti questi meccanismi di pinkwashing, greenwashing eccetera eccetera, che hanno a che vedere anche molto, no, con appunto, dicevo, il soggetto imprevisto, oppure la nostra parte, no? che è ancora la parte antagonista eccetera eccetera, rischia, come dire, di non essere più riconoscibile, no? Noi non siamo i buoni, diceva lei, no? E tutto questo è dovuto a questi processi di integrazione, no? quello che insomma mi preoccupa, come dire, questa introiezione, non soltanto i contesti o i gruppi, gli spazi antagonisti, ne abbiamo visti negli anni, no? Proprio attraversare Milano, e Milano da questo punto di vista è stato un laboratorio straordinario, no? Vi ricordate tutto il periodo, lì come si chiamavano, gli incubatori, poi erano i vari, vabbè, dove non mi viene il termine, quello dove ci si ritrovava per fare lavoro insieme, adesso i co-working, ecco, tutto il periodo dei co-working, tutti a lavorare dentro i co-working per far finta appunto di ricostruire delle forme di socialità che non ci sono, no? E questo è un problema che abbiamo. Il problema di conseguenza è anche, a partire da queste soggettività, così come dire sotto pressione, quello di trovare delle possibilità di ricomposizione, abbiamo spostato la socialità, la relazione, anche delle forme di affettività, no? Sui social, e hai ragione, è perfettamente vero questa cosa. Lucia ricordava un'altra cosa e anche qua la ringrazio, cioè quello che è successo con il Covid, no? Quindi lì, come dire, i processi di autocensura che, come dire, abbiamo introiettato in quel periodo lì, no? Quando di fatto si facevano una serie di sperimentazioni, sono state fatte una serie di sperimentazioni sociali secondo me molto pesanti, e hanno portato anche a trasferire molte delle attività, perché intellettuali siamo anche attivisti, almeno io questo ho sempre fatto, cioè le cose che ho fatto le ho sempre fatte perché appunto tenevo soprattutto a stare dentro la dimensione politica, dentro la dimensione dell'attivismo, no? E come dire, quel periodo lì è stato forse da noi sottovalutato, perlomeno io non so, forse è stata l'ultima battaglia seria nella quale ho creduto, cioè dire la verità su quello che stava avvenendo dentro la vita, no? E senza evidentemente negare il virus, eccetera, eccetera, ma sul piano delle sperimentazioni sociali che da lì in poi sono diventate secondo me più pesanti, anche con ancora maggior spostamento sui social, eccetera, eccetera. E per ciò che riguarda la questione della classe operaia, allora, classe operaia, io direi classe precaria, cioè cominciamo a dire delle cose, forse la classe operaia così come è stata intesa, con tutte le problematiche che tra l'altro si potrebbero aprire sul termine per ciò che riguarda per esempio il femminismo, mi viene da dire, guardiamo il fatto che aumenta lo sfruttamento, quindi c'è tutta la parte degli sfruttati, ecco, non so se chiamarla classe operaia, chiamiamola classe operaia, classe precaria, chiamiamola in un altro termine, ma non cambia il problema, non cambia chiaramente il problema, il problema dello sfruttamento e il problema dell'accumulazione, quindi di quello che riguarda la nostra parte, ecco, qualunque nome gli si voglia dare, grazie. Allora io provo, volendo dare, che è una cosa fa un po' ridere dare dei consigli, però un paio di cose secondo me vanno dette. Sui social, secondo me hai perfettamente ragione, io ci sono su Facebook e obiettivamente che è il cosiddetto, ho anche un profilo Instagram, ma comunque voglio dire sono cose un po' da boomer, ma il punto non è questo, chiaro che cioè so perfettamente che tutto quello che io metto lì è al servizio di cioè sta alimentando quello che ci uccide, però vabbè, naturalmente. Poi invece però per esempio ho il Nokia invece dello smartphone, ognuno resiste come può, vabbè. Detto questo, però secondo me è utilissimo evitare di comunicare, cioè tutta l'attività politica, se si può iniziare a opacizzare un pochino è utile, questa è una cosa che io ormai ripeto sempre, cioè se si può evitare di comunicare, non i contenuti vanno comunicati, perché il problema che noi abbiamo è che tutto format è zero contenuto, quindi i contenuti, le idee, le polemiche vanno dette insomma in qualche maniera, diffuse in qualunque modo, poi ognuno vede come si sente, ma fare pubblicità del proprio attivismo invece no, cioè secondo me il fatto, uno dei grossi problemi dell'attivismo contemporaneo è che è strutturalmente fondato sulla capacità comunicativa, cioè io per esempio non riesco a simpatizzare per le grandi azioni eclatanti fatte da alcuni movimenti, perché alla fine e non dico e non alludo solo ai colori sulle statue eccetera eccetera, dico per esempio anche, è una polemica che ho fatto molto con un movimento di cui ho grandissima stima e sono, mi riconosci se ami lavoratori e beni culturali, sono bravissimi, sono persone coltissime, hanno studiato, sanno tutto eccetera, ma la loro azione politica è fatta moltissimo di rappresentarsi, anche fare la foto con lo striscione, anche se dietro lo striscione sono tre persone, stento quelli che lo reggono, ecco, questo focus sulla rappresentazione del proprio attivismo, quello secondo me è veramente stare a quel gioco lì. Io mi ricordo ancora che ero entusiasta quando entrammo nella Torre Galfa a Macao, però ero allo stesso tempo atterrita quando la prima cosa che facemmo entrando, cioè, era tutti quanti per terra con i Mac a comunicare. In effetti quello funzionò, perché poi arrivarono migliaia di persone a difendere l'occupazione, però fu una scena quasi apocalittica, cioè 50 persone entrano dentro Macao, 25 si siedono per terra col Mac a fare social, social, social, social. Cioè, impressionante. Ecco, io credo che questa cosa alimenti poi forme di narcisismo attivistico, cioè secondo me sono controproducenti. L'altra cosa invece è quando ci si incontra dal vero. Io trovo è faticosissimo oggi incontrarsi dal vero per un eccesso di educazione. Cioè c'è un formalismo nel modo di riunirsi, anche nel dogma dell'orizzontalità assoluta. Non bisogna parlare più di 5 minuti, non bisogna fare ping pong, non bisogna fare... E sostanzialmente impedisce il confronto delle idee, dei contenuti. Alla fine hai il tempo giusto di autorappresentarti, anche dal vivo, è come se fosse di nuovo fare un po' su Instagram. E questo non va bene, cioè bisogna discutere veramente, secondo me. Ecco, so che sembrano due precetti un po' del cacchio, due ricettine, però secondo me questi due elementi, io vedo che questi due elementi sono due elementi che creano molti problemi, almeno li creano a me, questa è una mia impressione molto netta. Però l'organizzazione, l'auto-organizzazione è importantissimo, perché significa in qualche modo buttare l'amo per essere pescati. E quindi, non so, tu fai il giardino autogestito, fighissimo, che per un anno o due crea veramente un centro di anche di attività politica in un quartiere, di risignificazione. Niente, dopo un po' arrivano i falchi e diventa un patto di collaborazione e si trasforma nel suo opposto, e gli attori più politicizzanti di quella cosa sono costretti a tacere, sono ridotti al margine dell'operazione. Grazie a tutti. Allora, Ubaldo, facciamo noi, qui chiudiamo. Volevo solo rammentare che, appunto, come diceva Cristina, stiamo parlando dall'osservatorio Europa-Italia, perché classe operaia in Cina ce n'è a vendere, il lavoro duro e materiale si continua a fare, del quale usufruiamo, per cui è un nodo. Sentite, io mi sento di ringraziare davvero tutti, pubblico, espositori, tutti gli amici e compagni che hanno permesso questo incontro bellissimo, questa iniziativa. Vi aspettiamo assolutamente domani alle ore 10, saremo qui assolutamente tutti presenti. Vi auguro una buona serata e davvero grazie della partecipazione.